get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera, buonasera e ben ritrovate. Quella che state ascoltando è la 207esima trasmissione del coordinamento lesbiche romane e segna la ripresa, dopo la pausa estiva, dei nostri settimanali incontri attraverso i liberi microfoni di Radio Onda Rossa all'interno del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87-900 MHz. Oggi qui in radio siamo Caterina, che vi sta parlando, e Lucilla. Ciao! Allora, come sono andate queste ferie? Mi auguro bene, anche se ne sono sicura, se avete fatto come e fate come noi, che anche quando andiamo in vacanza manteniamo un orecchio e anche un occhio vigile su tutto quello che accade, e ci rendiamo conto che c'è veramente poco da stare allegre. Dunque, ricapitolando, noi siamo qui e voi? Spero che il nostro consueto passaparola abbia sortito un buon effetto e che ci stiate ascoltando in molte. Magari se ci date pure un segnale ci farebbe oltremodo piacere. Magari qualche trillino. Esatto, infatti è possibile darci sentore della vostra presenza facendo un trillo al telefono della radio, di cui ricordo adesso il numero di telefono, è 06 49 17 50. Qui in regia si accende sempre una lampadina ogni volta che il telefono squilla. In questo modo noi che siamo qui possiamo ascoltarvi anche senza che voi parliate. Oppure potete inviarci un SMS. Vuoi ricordare il numero, Lucilla? Ma certo, il numero è 338 4146 682. Bene, allora diciamo che li aspettiamo. Noi abbiamo già acceso il cellulare e speriamo che arrivi qualche messaggio. Dunque, per la trasmissione di oggi abbiamo pensato di proporvi alcune semplici considerazioni su alcuni episodi accaduti, una intervista molto particolare fatta in Perù e che dimostra ancora una volta quanto le donne possano essere determinanti nella ricerca e nell'attuazione di strategie a difesa e supporto di altre donne, e poi, per condire tutto quanto, come di consueto, della buona musica e qualche appuntamento interessante. Per quanto riguarda la buona musica, dico subito che per non perdere l'abitudine abbiamo così dei problemi tecnici, per cui abbiamo soltanto una piastra a disposizione e ci dovete dare il tempo materiale per fare le sostituzioni dei CD. Adesso io infatti avevo messo in programma una canzone di aspetta, una canzone che si intitola, vi do il titolo prima così almeno stiamo sicure, allora è Batonga e la canta, un attimo di pazienza che adesso ve lo dico pure, Angelique Kidjo. Kidjo. Vai con Angelina. Eccoci, eh? Batonga. Yeah. Allora, come dicevamo nell'introduzione, noi siamo abituate a mantenere vigile la nostra attenzione anche quando siamo in vacanza, e di cose ne sono successe veramente tante. Ma noi siamo un gruppo lesbico femminista, quindi ci limiteremo a prendere in considerazione, almeno in questo frangente, soltanto alcune delle innumerevoli cose accadute durante questa afosa estate, e che hanno come protagoniste, loro malgrato, purtroppo molte donne. Stiamo pensando chiaramente agli omicidi, alle violenze e a tutti gli altri soprusi che le donne hanno subito e che sono stati messi in atto dai cosiddetti compagni, amanti, mariti, fidanzati, ma anche ex fidanzati. Così, tanto per ricordare, per non perdere l'abitudine, per non abbassare la guardia e per sottolineare ancora una volta che la violenza sulle donne non va mai in ferie. Inutile elencarli tutti, ognuna di noi ha sentito e continua a sentire quotidianamente le notizie di quelle trucidate e abbandonate nel bosco, di quella massacrata a casa sua, di quella presa a fucilate dal marito, di quella pugnalata dall'ex fidanzato, di quella e di quelle altre, tante altre ancora purtroppo. A volte i telegiornali sembravano quasi bollettini di guerra. Inutile elencarli, dicevamo. Quello che a noi interessa in questo momento è l'esame di alcuni provvedimenti e l'analisi di alcune risposte al problema donna, così come è stato identificato in un servizio sui media, che sono stati impiantati dalle autorità competenti. Competenti? Scopriamo insieme se veramente sono competenti. Di tutte queste, cioè, dopo tutta questa elencazione di brutte notizie ascoltate e date dai videogiornali, radiogiornali e giornali, dalla stampa, capirete bene quanto possa averci fatto piacere scoprire come alcuni solerti sindaci, tra i quali il nostro, abbiano escogitato risposte efficaci per tutelare le donne residenti nei loro comuni. Era ora che qualcuno prendesse in mano la situazione e che finalmente si facesse carico della tutela delle donne. Grazie Veltroni. Ecco, avete sicuramente capito di cosa stiamo parlando, ma dei lavavetri, che altro, scusate. Sì, perché è stato esplicitato, immagino abbiate sentito anche voi i diversi servizi ripetuti più volte e anche in più fasce orarie dai telegiornali, che il pugno di ferro contro questi pericolosi soggetti è stato attuato principalmente perché costoro attentano soprattutto all'incolumità delle donne sole e delle persone anziane. Si è finalmente evidenziata la matrice del problema che angustia tutte le donne. Possiamo tirare un vero respiro di sollievo pensando che, arrivati ad un semaforo, non dovremo più imbatterci con chi pretende da noi sempre qualche cosa. D'ora in poi potremo andare in giro per le strade della nostra città e non temere più nulla. Solo un dubbio mi sorge spontaneo, ma noi donne saremo sicure anche quando andiamo a piedi? Ma non vogliamo fare sempre quelle che non sono mai contente, vogliamo apprezzare lo sforzo affrontato per tutelare noi e tutte le altre donne nostre concittadine. Ripulire i semafori da tutti i nomadi, gli extracomunitari, ha comportato sicuramente un notevole dispiego di forze ed evidenzia indubitabili capacità organizzative. Cioè, una cosa sola, saremo sicure per strada? Però quando torniamo a casa so cavoli, perché è lì che non siamo sicure. Infatti, peccato che il 90% degli abusi sulle donne avvenga all'interno delle mura domestiche. Peccato che quasi tutti gli aguzzini siano italiani, farina del nostro sacco. In loro pulsa e vive un cuore tricolore. E allora, per piacere, non prendeteci in giro. Non cercate la scusa delle donne per avallare le vostre idiozie. Non spacciate per risolutivi atti che servono a conquistare un elettorato xenofobo. Non strumentalizzate le donne per nascondere la vostra incapacità a risolvere i problemi reali contro la violenza delle donne, sulle donne. L'Afghanistan purtroppo ci ha insegnato che le donne vengono usate soltanto come paravento, quando gli interessi sono altri invece. Ancora vivono in un aberrante stato di subalternità, nonostante l'aiuto internazionale con gli americani in testa. A questo punto ci pare, e ci pare giusto anche, ci piace riprendere una frase che non abbiamo detto noi, ma che riassume la situazione attuale, e la vogliamo dire ai dominici e ai veltroni di turno. Insomma, fate qualcosa di sinistra. Non pretendiamo certo che siate illuminati sulle donne, ma insomma, prendersela con i lavatetri, francamente, ci sembra proprio troppo. Allora, quella che state ascoltando è Aika Kone con il brano Kanawa, ed è una cantante che viene dalla Costa d'Avorio. Kanata Angola, marifa kese dunye Angola siraka. Kanata njamena, fade ya kele dunye jamena. Nako kake dolari koye monye ni kodima. Mono fonyo kana wa Liberia. Nako kake ziamanye ni koye monye ni kodima. Woro dembele kana wa Angola. Nako kake dumini koye mbonye ni kodimo. Monofonyo kana wa Somali. Kana wa Liberia. Kele bambali dunye Liberia. Kana wa Somali. Manyuma kodunye Somali. Dibi, dibi manyi. Dibi ni maya vani. Liberia, Allora, avete sentito che finora abbiamo messo dei pezzi musicali di musica, di pezzi di musica dal mondo, no? E questo perché? Perché adesso vi presentiamo un'intervista molto particolare. Quest'anno con la mia compagna sono stata in Perù e abbiamo conosciuto una donna italiana che vive lì da 29 anni e che porta avanti un grande progetto in Perù per le donne che si chiamano Trabajadoras de Hogar, che vorrebbe dire lavoratrici del focolare, e questo è già tutto un programma. Quindi partiremo. L'intervista è stata fatta ovviamente non con una registrazione, e però l'abbiamo trascritta e presteremo le voci Caterina ed io per questa intervista. Quindi buon ascolto e intanto andiamo. Ok. Ah, scusate, la persona si chiama Vittoria Savio e l'intervista è avvenuta a Cusco in Perù il 7 agosto del 2007. Come hai iniziato, Vittoria, il progetto in Perù? Nel 1979, come quasi tutta la sinistra italiana, volevo andare in Nicaragua. Io però ero un insegnante di matematica e invece in Nicaragua servivano persone per attivare progetti sulla salute. Non essendo necessaria la mia presenza in Nicaragua, sono entrata in un progetto sull'artigianato con e per le donne peruviane che lavoravano prevalentemente la terra e nei momenti liberi andavano a cercare l'oro. Sono quindi arrivata a Puno, in Perù. Senti, come venivi pagata? Allora, sono venuta in aspettativa senza stipendio e la scuola continuava a garantirmi il posto. All'avvio di ogni anno scolastico, infatti, il preside mi colpevolizzava dicendo che il mio posto veniva ricoperto da insegnanti poco qualificati e quindi nel 1988 sono andata in pensione con il minimo. Ma qua in Perù è più che sufficiente, al punto che ancora oggi riesco ad appoggiare il progetto attuale di cui parleremo. Allora sei stata coinvolta in più progetti? Sì. Dopo 2 o 3 anni della mia permanenza a Puno, mi hanno assegnato un appezzamento di terreno con il quale poter lavorare con le donne artigiane di cui parlavamo prima. Lavoravo insieme ad altri 3 cooperanti, 2 francesi e 1 belga. Proprio nel 1988 è iniziata l'azione rivoluzionaria di Sendero Luminoso, contro cui la repressione è stata cruenta, al punto che i tre cooperanti sono stati uccisi, e non da Sendero Luminoso. L'allora ministro degli esteri italiano pretendeva di rimpatriarmi, ma io non ho voluto, anche se ho dovuto lasciare Puno. E allora che cosa hai fatto? Allora, mi sono trasferita a Lima e per 4 anni ho studiato la problematica delle donne che lavorano in casa, cioè quelle che in Italia chiamano collaboratrici domestiche. Ho collaborato con l'IPROFOT, che è un'associazione peruviana che ha come obiettivo quella del salario alle collaboratrici domestiche. Ma perché tutto questo interesse e come mai tutto questo tempo per conoscere questa realtà? Che cos'ha di particolare? Allora, il fenomeno riguarda bambine e donne giovanissime che provengono dalle zone più povere del paese. Queste giovani donne, queste bambine, vengono vendute dalle famiglie che sperano di assicurare loro un futuro migliore. Scusa, di quale fascia d'età stiamo parlando? La fascia d'età è compresa tra i 6 e i 12 anni, anche se ho notizia di casi in cui il fenomeno inizia a 4 anni. Che significato può avere, dunque, rivendicare un salario? Queste bambine perdono completamente i contatti con la famiglia d'origine, spesso vengono trasferite da una famiglia all'altra e i nuovi padroni cambiano loro il nome. Spesso vengono minacciate di perdere il posto di lavoro se ricercano i contatti con la famiglia. I padroni ritirano loro i documenti. Scusa, Vittoria, ma tu le famiglie d'origine le ricerchi, quelle delle bambine? Noi ci proviamo, ma è molto difficile. Le bambine non ricordano il paese d'origine e magari descrivono una casa con il tetto di paglia. La strategia di cambiare il nome le porta ad una perdita di personalità e di ricordi. Dunque, loro non riescono ad aiutarti. Ma perché i genitori vengono le figlie? le vendono. Le madri dicono loro: ti faccio gente, come a dire ti do uno statuto di persona, sarai cittadina con un futuro. Nelle campagne la povertà è talmente devastante che certo chi la vive non si considera persona, qualsiasi cosa può essere meglio. Scusa, ma l'opinione pubblica è a conoscenza di questa realtà? Sì, è a conoscenza, ma soltanto da 5 o 6 anni i giornali ne parlano e anche le ragazze cominciano ad uscire dal silenzio. Pensa che fino a poco tempo fa queste giovani donne non avevano il diritto di entrare nelle spiagge di Lima, pur lavorando presso le famiglie ricche della capitale. Ora almeno, come ti dicevo, se ne parla. Per alcune la schiavitù è più lieve, ma comunque sono trattate come un elettrodomestico. Altre vengono picchiate e violentate. Una di queste donne oggi ha 50 anni e collabora con me al progetto. Quando era a servizio, dormiva nella camera dei suoi padroni, sopra una pelle, ai piedi del loro letto. E nel tempo, i suoi padroni hanno fatto 6 figli. Quindi tutti, e quando dico tutti significa proprio tutti, possono avere una schiava in casa. Anche il più povero de campesino può prendere una bambina alle sue dipendenze. Senti, hai detto che l'Iprofot rivendica salario per le collaboratrici domestiche, ma tu non sei d'accordo. Perché? Che cosa pensi sia più giusto fare? Allora, io credo sia più giusto fare in modo che possano scegliere per la loro vita. Ho pensato di fare un centro di appoggio integrato rivolto alle collaboratrici domestiche perché possano accedere all'istruzione e alla formazione, privilegiando relazioni di tipo affettivo. Se non hai alcun referente affettivo, non sei semplicemente sola, ti senti come un cane. Le donne subiscono tutto questo a causa della cultura quechua, che è una cultura antica, ancestrale, è peruviana, soprattutto delle Ande, e che porta le madri a dire, come ho accennato prima, ti ho fatto gente, cioè non sei più un animale, ti ho fatto persona perché grazie a me puoi andare in città, qui non siamo nessuno. Senti, ma puoi definirci un po' meglio il progetto? Sì, il centro noi l'abbiamo chiamato in quechua Yana Panakusun e non ha scopo di lucro, si dedica ad attività sociali. Costituita legalmente come persona giuridica l'associazione nell'agosto del 2001, ma già dal 1994 realizza azioni in favore delle collaboratrici domestiche, quelle appunto che si chiamano Trabajadoras de Hogar. Ci avvaliamo dell'aiuto di un'equipe ben articolata ed abbiamo l'obiettivo di trasformare e o rafforzare gli interventi pubblici e privati per promuovere il cambiamento sociale. Ci prefiggiamo di migliorare la condizione umana e valorizzare l'identità culturale delle lavoratrici attraverso l'educazione e la formazione. Non pretendiamo di confezionare le soluzioni ai problemi di queste donne, ma intendiamo fornire strumenti affinché trovino loro stesse le soluzioni. Senti Vittoria, ma tu hai contatti con le famiglie? Allora sì, nell'ambito del progetto cerchiamo di ricostruire le relazioni con le famiglie di origine, anche se, come già ho accennato, spesso le bambine non ricordano niente del loro passato. I padroni del resto fanno loro il lavaggio del cervello, imponendo persino come vestirsi, pettinarsi e cambiandogli il nome. Non a caso ci sono storie di schizofrenia, ed è anche logico, visto le sofferenze subite, che provino odio verso le famiglie di origine. Senti, ma perché hai scelto proprio Cusco? All'inizio volevo andare ad Ayacucho, ma dati i fatti, ma dati i fatti di Sendero Luminoso, il console italiano non permise a nessun italiano di spostarsi in quelle zone. Anche per Puno ci fu il veto. Mi proposero Arequipa o Cusco, e quindi nel 1991 ho scelto Cusco. Senti, ma c'è un'altra cosa che ci interessa molto: come sei riuscita ad entrare in contatto con le bambine? Allora, all'inizio è stato difficile, perché giustamente le ragazze, le bambine, sono diffidenti. Ho tessuto delle vere tele. Tutte le domeniche pomeriggio mi sedevo a Plaza de Armas e facevo la maglia vera, cioè con i ferri e con il gomitolo di lana. Dopo un anno circa ho avuto i primi rapporti con loro. Il lavoro a maglia ci ha unite. E poi che è successo? E poi ho comperato una casa con la liquidazione, e dal 1994 ci sono arrivate un certo numero di adolescenti. Si dormiva con i materassi a terra. Tramite il passaparola, la domenica altre venivano per cucinare insieme e mangiare. E se poi qualcuno andava a scuola, se qualcuno era fortunata ed andava a scuola, allora faceva i compiti con noi. Ed era facile per le ragazze frequentarti? No, loro venivano impaurite, perché le signore le spaventavano con l'ipotesi di essere portate via e fatte prostituire, ed è un'ipotesi non tanto remota, no? Certo, certo. Senti, Vittoria, invece con le istituzioni che rapporti avete? Allora, ti voglio raccontare questo episodio per farvi capire come è iniziata la collaborazione con il Tribunale. Nel 1997 un'adolescente è stata violentata dal padrone, che poi l'ha mandata in un riformatorio. Venuti a conoscenza dell'accaduto, abbiamo incaricato un avvocato di seguire la vicenda, ma dal momento che l'avvocato non faceva nulla, abbiamo preso ulteriori informazioni e siamo venuti a sapere che il violentatore stesso era un avvocato, quindi c'era un diritto di casta che veniva difeso, no? Abbiamo denunciato il fatto alle autorità competenti, e da lì il tribunale ci ha affidato quella bambina, e da allora quindi è iniziata la collaborazione con il tribunale. Senti, abbiamo parlato dei contatti con le famiglie di origine, ci hai spiegato che sono molto, molto difficili, abbiamo parlato anche dei rapporti con le istituzioni, ma riuscite ad entrare anche in relazioni con le padrone? Beh sì, almeno ci proviamo, e facciamo degli incontri con loro, e con qualcuna si lavora anche bene, ovviamente non con tutte, però... Certo, certo, mi rendo conto, ma in che modo attuate la formazione delle bambine all'interno del vostro progetto? Ecco, abbiamo fondato una scuola elementare ed una scuola superiore. Allora, il 70% dei posti per la scuola, dove ci sono delle maestre che insegnano ovviamente, e delle insegnanti di scuole superiori, ecco, il 70% dei posti è riservato alle donne lavoratrici, mentre il 30% ai ragazzi lavoratori, perché qui... E che fanno per esempio i ragazzi? Cioè le bambine vanno a servizio, ma i bambini? I bambini sono per strada che per esempio fanno illustrascarpe, e quindi è questa la realtà. E abbiamo inoltre, oltre alle scuole elementare e la scuola superiore, abbiamo anche la scuola per promotrici sociali e leader, allo scopo di prepararle ad essere portavoce delle altre a difendere i loro diritti. Senti, immaginiamo che tutto questo abbia sicuramente dei costi elevati, ma come vi finanziate voi? Allora, sui finanziamenti la situazione è un po' particolare, nel senso che noi non abbiamo un progetto riconosciuto e quindi finanziato da qualsiasi comunità, tipo la comunità europea o d'altro, però abbiamo dei finanziamenti che ci vengono dalla provincia di Trento e da un'associazione irlandese, ma noi cerchiamo di essere autonome proprio perché avere dei finanziamenti significa dover rendicontare oggi, essere sono, poi vincolati domani no, appunto essere vincolate eccetera. E allora in che modo vi rendete autonomi? Abbiamo, per esempio, abbiamo costruito un ostello accanto alla casa con 15 camere per turisti per i quali facciamo anche da mangiare e con i quali riusciamo a finanziare ben il 20% del progetto stesso. In questo momento, per esempio, abbiamo una ventina di ospiti. Ma ospiti perché è una zona comunque turistica, Cusco? Beh, sì, Cusco è una zona turistica perché da qui si va alla Valle Sacra, è la zona degli Inca e a Machu Picchu, no? Ho capito. Senti, aspetta, esistono comunque delle leggi che tutelano i minori anche qui? Esistono norme che inquadrano il lavoro domestico, per esempio? Sì, allora esistono delle leggi che vengono però disattese, un po' come tutto il resto del mondo, esatto. No? È una cosa comune. Esatto. Quello che noi cerchiamo di garantire è quanto segue, cioè che queste donne, queste giovani donne, queste ragazze e bambine abbiano sempre un posto fisso dove dormire, un vero letto e non quindi un tappeto per terra o in cucina, eccetera, oppure nella camera da letto dei proprietari, no? dei padroni, che possano mangiare a tavola e quindi avere un tempo per mangiare e che a tavola stiano con i padroni e quindi non relegate in cucina in piedi. E che vadano a scuola almeno fino a 16 anni, perché la legge peruviana questo prevede, cioè prevede che la scuola dell'obbligo arrivi fino a 16 anni. Questo aspetto è molto importante perché significa poter avere un titolo professionale riconosciuto ed avere quindi gli strumenti per poter scegliere della propria vita. Allora, questa era l'intervista che Lucilla ha fatto quest'estate. Noi l'abbiamo trascritta fedelmente in base agli appunti che erano stati presi. Speriamo che sia stata esauriente, sia le nostre domande sia le risposte. Poi volevo adesso mettere una canzone che abbiamo trovato di una cantante peruviana che si intitola Negra Presuntuosa e la cantante si chiama Susanna Baca. E un attimo solo, volevo solo dire, scusa, il titolo del progetto. Il titolo del progetto è Per lo sviluppo complessivo delle lavoratrici domestiche, tradotto praticamente maccheronicamente da loro, e noi abbiamo aggiunto questo, un progetto per l'autodeterminazione, e ci sembra proprio che ci vada a fagiolo. Azzeccato. Gota que me está pisando los talones.

è nuovamente riparato, quindi potete anche mandarci un fax oppure se chiamate il giovedì sera potete parlare direttamente con una di noi. E non finisce qui, perché per gli amanti del della carta potete anche scriverci una lettera indirizzandola a CLR presso Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Ripetiamo ancora il telefono della radio 06 49 17 50 ed il nostro cellulare che è 338 41 46 682 e che rimarrà attivo fino alle 10 di questa sera. E adesso finalmente passiamo veramente agli appuntamenti reali. Vai Lucilla. Allora, intanto gli appuntamenti ce ne incominciano già ad essere molti, a parte se vorrete potete andare a consultare il sito della Casa Internazionale delle Donne, dove già c'è tutto in calendario. Il sito è www.casainternazionaledelledonne.org. E intanto c'è un'associazione che si chiama La Magnolia e che è uno spazio espositivo d'arte contemporanea per le giovani artiste. Questa Magnolia intanto presenta Vernissage giovedì 27 settembre 2007 alle ore 19 con una mostra fotografica che si intitola Wonderland di Sara Spizzichino. Chi è Sara Spizzichino? Allora, Sara Spizzichino nasce a Roma nel 1980. Nel 2002 si iscrive al corso di pittura dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Nel 2004 si trasferisce a Parigi per un anno per frequentare l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratives. Sentite che francese. Madonna. Nella sezione Art Espace. Nel 2005 torna a Roma, dove tuttora vive e lavora. Ha collaborato con la Galleria Nazionale d'Arte Moderna per la realizzazione di un libro sulla mostra permanente, curando la sala Alberto Burri. Dal 2004 collabora con l'agenzia di comunicazione pubblicitaria Visual Advertising, e sull'inglese cado un po', per scrivere eccetera eccetera. Potete a area cultura, scritto tutto attaccato, punto cid, cioè con due d finali, che sarebbe Casa Internazionale delle Donne, cid chiocciola tiscali.it. E per tutte queste iniziative, poi ve ne leggerò delle altre, ci sarà il 25 di settembre alle 11 la conferenza stampa in via delle Vergini 18. Sì, no, non c'è la musica di sottofondo perché praticamente abbiamo insomma, preparato la musica dopo. Fai un po' di musichetta tu. Para, pere, cioè, non mi ha messo la musica. Vabbè, però non metto la musica di sottofondo, ma è arrivato finalmente un messaggio. Vai a leggere. Allora, un attimo, che qui no, aspettate un secondo che è complicata la cosa. Vai Lucilla, leggi un'altra cosa. Mentre lei continua a cercare di capire questo messaggio, io vi dico qualcosa su questa associazione, la Magnolia, che dice: la creatività ha trovato casa. Nella Casa Internazionale delle Donne è nato uno spazio espositivo di arte contemporanea, come dicevo prima, per le giovani artiste. Allora, la Magnolia è una vetrina aperta alle esperienze artistiche di giovani donne all'inizio della loro attività. La Magnolia è un anello di congiunzione tra il mondo dell'arte e le giovani artiste. La Magnolia è una rete di scambi e di relazioni nel campo dell'arte e della cultura. La Magnolia è uno spazio per mostrare, mostrarsi e conoscere. Quindi alla Casa Internazionale delle Donne in via della Lungara 19, 06 68 40 17 21 è il telefono, areacultura.cid, cioè CID chiocciola tiscali.it, oppure www.casainternazionaledelledonnetuttattaccato.org. Se vuoi posso mettere un pezzettino di musica di sottofondo. Certo, grazie. Ci sono, vado. No, dico, senti che t'ho messo. Non l'ho ancora capito, fra poco lo capirò. Todas del color de tierra, la nostra amichetta. Bene. Della cañada, las que guardan en sus pechos, los cuatro vientos, la luz del alba, que poseen pasamontañas, cubriendo el rostro, no su palabra. Las que dejaron cocinas, tomaron armas en las mañanas. Mujeres que viven en la selva, mujeres del pueblo y de ciudad, indígena eres, color de tierra, mujer fortaleza y dignidad. Mujeres que hilan ya su historia, mujeres de fuego y corazón. Allora. Allora, se continuiamo, Oshikuriel ci piace sempre, naturalmente. E allora, quindi ricordate che ci sarà questo vernissage giovedì 27 settembre 2007, che dalle 19 in poi e sarà alla casa la mostra fotografica di Sara Spizzichino. Poi che il 25, quindi due giorni prima, alle 11 sarà la conferenza stampa in via della Lungara 18, che presenterà le iniziative prossime, e immediatamente dopo questa ce ne sarà una in ottobre, il 25 ottobre, sempre mostra fotografica di Nadine Etner, Risvegliare il luogo intimo, un viaggio tra l'onirico e la materia primordiale. Finisco dicendo che la mostra di Sara Spizzichino sarà dal 27 settembre al 17 ottobre. E adesso passiamo ad altre iniziative, che sono intanto la manifestazione del 13, che è quella 50 e 50. Il 13 di ottobre ci sarà la manifestazione dell'Udi Nazionale e dei centri raccolta per le firme della legge d'iniziativa popolare, e perché finalmente si andrà un pochino alla resa dei conti di questa grande iniziativa, battaglia, che è partita da un gruppo di donne che hanno fatto una proposta di cui poi parleremo, perché non la prossima, ma non la settimana prossima, perché va in replica questa trasmissione, ma quella successiva dedicheremo proprio uno speciale. Accenderemo gli special e con buona probabilità ci sarà proprio Pinanuzzo con noi. Esatto. Per l'intervista. Detto questo, quindi per promuovere questa grande manifestazione, speriamo di essere a Roma tantissime, e già da ora vi diciamo: non prendete impegni per il 13, per sabato 13 ottobre, perché andremo tutte quante a manifestare. Poi scusa se ti interrompo, siccome sono riuscita finalmente a leggere il messaggio che ci è arrivato. Allora, bentornate, vi ascolto sempre, avanti così. Angela, ringraziamo Angela, che è l'unica che ci ha mandato un messaggino. Grazie oggi. Angela, anche noi siamo contente del tuo messaggio. L'altra iniziativa sarà per il 20 di ottobre, e il 20 di ottobre sarà una giornata calda a Roma, anche in quel caso ci sarà una manifestazione, poi ciascuno deciderà cosa fare, però faremo la nostra prima iniziativa come CLR e andremo a presentare delle due poete, due donne che scrivono poesie e che si confronteranno tra di loro con queste poesie. Il contenuto è a sorpresa, vi chiediamo quindi di, anche per il 20, per sabato 20, di non prendere altri impegni. Di una cosa però possiamo fare una piccola anticipazione, scusa se ti interrompo. No, assolutamente. Come abbiamo fatto già in altre occasioni di iniziative nostre, nelle quali abbiamo presentato i risultati del lavoro fatto da donne, sia in campo poetico, cioè, diciamo le artiste che sicuramente non stanno nei circuiti quelli classici, Alla fine di ogni spettacolo abbiamo messo a disposizione il microfono perché poi le donne che stavano lì in sala potessero esprimersi con le proprie produzioni. Diciamo che questa iniziativa del 20 ottobre, trattando di poesia, ci potrebbe anche permettere, possiamo anche ipotizzare nell'ambito della serata, in un momento, di dare il microfono alle partecipanti che abbiano voglia di leggere le proprie poesie, insomma, ecco, questo possiamo già anticiparlo. Esatto, quindi questo. E poi, a proposito di quanto abbiamo, dell'intervista che vi abbiamo letto oggi, non sappiamo se riusciremo a realizzarlo, noi speriamo tanto di sì. Vittoria Savio, la donna con cui abbiamo dialogato prima, nell'intervista che vi abbiamo letto, riportato, con buona probabilità sarà a Roma in novembre. Nel caso in cui questa cosa si realizzi, cioè se Vittoria potrà essere da noi a novembre, faremo un'iniziativa con lei alla, certo, Casa Internazionale delle Donne, certo. Ci sarà una proiezione di un video e poi lei stessa ci racconterà il suo progetto e la scommessa, la grande scommessa che sta facendo in Perù per l'autodeterminazione delle donne giovani, in questo caso le giovanissime. Ecco, questo è tutto. Io direi, se non hai altre cose di importanti. No, io niente, siccome l'avevo già fatta sentire un pezzettino, però mi faceva piacere che comunque concludere questa nostra prima trasmissione dopo il rientro estivo con la canzone che era già andata in anticipazione prima, che si intitola Mujer Es Tiempo, che è di Diochi Curiel, e adesso la rimando da capo, però mi faceva piacere leggervi due frasi di questa canzone. Donna, non arrenderti, è tempo che le tue giornate siano di esempio. Donna, il tuo popolo ti chiama, infine devi prendere la fiamma. Donna, ascolta la mia chiamata, per te la speranza è sbocciata, per te ritorna e nasce la vita, e nasce una nuova illusione. Lottare diminuisce il tuo pianto. Vivere nella libertà e nell'amore. Senza di te ci sono momenti di vuoto. Senza di te non esiste più l'amore. Ci sembra buona, no? Ok, allora con questa canzone il coordinamento Lesbiche Romane vi dà appuntamento alla settimana prossima, cioè martedì 25, con la replica di questa trasmissione. E quindi un saluto a tutte, di nuovo e ben ritornate, e alla settimana prossima. Ciao. Ciao. Ho sbagliato canzone, perdonate, era la numero 6. Quizás tu conciencia ha dormido, tu vientre han estado violando, tus ansias han quedado vacías. Luchar fue tu verbo olvidado, miraste horizontes perdidos. Mujer, te has estado entregando a ciegas como el aire en el llano. Mujer, oye tú mi llamado, por ti la esperanza ha brotado, por ti vuelve a nacer la vida y nace una nueva ilusión. Luchar aminora tu llanto, vivir en lo libre y lo amado. Sin ti hay instancias más.